Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, non è... Buonasera, buonasera, rieccoci qua finalmente su Nervature, tornate. Che bello, questa pausa è stata un po' troppo lunga, questa pausa estiva che poi è diventata anche un po' autunnale. È stata veramente un po' troppo lunga, scusate tantissimo infatti per queste mie assenze, ma oggi finalmente eccoci di nuovo tutte qua insieme in questo lunedì 29 settembre. 29 settembre saranno circa le 19 qualcosa a questo punto, non ve lo so dire di preciso perché io oggi sono registrata, per cui appunto ecco non sono in diretta. Nonostante questo, come inizio di nuovo di queste trasmissioni di questo autunno 2025, vi do lo stesso i nostri riferimenti anche per scriverci in diretta. Mi riferisco al pad. Il pad è uno strumento online, un foglio di testo condiviso con tutte quelle che apriranno appunto il link dedicato, e il link è direttawombat.vado.li. Voi lo aprite e potete scrivere dove volete semplicemente, e noi lo vediamo in diretta quando trasmettiamo in diretta, altrimenti in differita, e risponderemo o dal pad o comunque in qualche altro modo ci faremo sentire. Che dire, Radio Wombat, vi consiglio di ascoltarci in AM sulle frequenze 13.59, ovviamente nell'area fiorentina, e soprattutto di farci sapere come si sente, quanto, dove, come, dove siete, sempre tramite il pad. Ci trovate anche in streaming dal sito radiowombat.net, e è un sito super bello, ormai lo saprete, ormai lo conoscerete benissimo, perché oltre appunto allo streaming ci sono tutti i podcast delle trasmissioni che pubblichiamo, attive, non attive, vecchie, nuove, qualsiasi cosa. E trovate anche altre informazioni utili, per esempio la sezione contatti del nostro sito, potente, potentissima. Vabbè, trovate una serie di altri modi per chiacchierare con noi, c'è anche di nuovo il link al pad ovviamente, quindi insomma non avete più scuse, ormai sapete come raggiungerci e come farvi sentire. Ci teniamo tantissimo ai vostri pareri, ai vostri messaggi, quindi non esitate davvero. Che dire, in questa nuova stagione, se così la vogliamo chiamare, anche perché fa un freddo, raga, io boh, veramente, l'estate è finita subito, è tristezza. Comunque, quindi no, in questa nuova stagione di Nervature vedremo insieme chissà che cosa ci prospetta. Oggi rinizio a trasmettere perché settimana scorsa, che era il 22, lunedì 22 settembre, in realtà avevo in programma di fare esattamente la trasmissione che vi faccio oggi, ma ho deciso di, come Radio Wombat, di aderire ovviamente allo sciopero, di stare in piazza, di farsi sentire per la Palestina, per far smettere questo aberrante genocidio, questa apartheid che va avanti da decine di anni. Quindi è stato importante essere in piazza, lo è ancora ovviamente, ieri, oggi, domani lo sarà sempre, quindi siamoci, mi raccomando. In ogni caso la radio Wombat è anche un modo per sbattere la testa contro questo sistema che ci fa cacare, e diciamolo pure se è così. E quindi siamo anche ovviamente contenti di riprendere a trasmettere qui a Nervature, ovviamente. Allora, Michelito, ho parlato tantissimo, direi di farvi sentire un primo pezzo e poi direi di entrare nella puntata odierna. Walk by to my darkening, walk by to my darkening, walk by to my darkening, walk by to my darkening. Hey, hey, hey, hey. Music of the new generation. Special power, the virtual powder. Now I'm surfing, I'm jumping, I'm crawling, and I am. Bark by to my darkening, bark by to my darkening, bark by to my darkening, bark by to my darkening, bark by to my darkening. Through the gates, I get my virtual powers. The virtual powers. Powder. Bark bands on my tie. Bark bands on my tie. Bark bands on my tie. Bark bands on my tie. Bark bands on my tie. Queste erano le Zap Mama, decisamente uno dei miei gruppi preferiti, ormai non ho più dubbi, veramente questa era Gbo Matta, chissà come si pronuncia, Zap Mama, stupende. Allora, quindi in questa puntata di Nervature, oggi vi preannuncio che cosa succederà in questa puntata. Allora, abbiamo due ospiti qui con noi oggi, non presenti in regia, ma sono state intervistate qualche giorno fa e quindi oggi io vi rimando le loro voci. Partiamo dalla seconda, perché ormai la conoscete e spero e sono sicura che sarete contenti di risentirla a questi microfoni. È la nostra giardiniera Cecilia che ci presenta i lavori del mese, in realtà poi vedrete dei mesi perché facciamo un po' insieme settembre-ottobre, perché insomma siamo il 29 settembre oggi, quindi forse era bene parlare anche di ottobre. ma questa la sentirete dopo. E ora invece sentite una voce nuova, ed è la voce di un musicista, ma non solo, lo sentirete, un musicista che con il suo progetto musicale fa rap, quindi su basi hip hop, su basi appunto hip hop, e ci canta sopra robe bellissime. E forse è meglio se non vi dico niente, vi faccio direttamente sentire un suo brano per poi direttamente passare all'intervista. Ve la interromperò mettendo appunto qualche altro suo brano, poi ne sentiremo altri anche dopo. Sono super contenta di questo collegamento e, che dire, ve lo faccio sentire, si fa prima. Sì, sì, questa va a tutti i miei fratelli plastidi. Bianco cloroplasto. Fotosintesi, la faccio ogni dì. Prendo H2O, creo ossigeni ATP. Lavoro anche di notte, lo sai che non riposo. Nella fase oscura faccio un sacco di glucosio. Dammi un po' di luce a fare breccia nel mio lume. Darò verde ad ogni pianta senza distinzioni alcune. Questo grande sole emana luce in ogni raggio, che assorbo nel grana per dare inizio al viaggio. Se cerchi clorofilla, chiedi a un tiracoide, lui ne ha. Se cerchi un ribosoma, nello stroma c'è anche il DNA. Desossiribosi a doppia elica, guardami decollare nella metrica. Un shoutout speciale a tutti i proplastidi che sono ancora in fasce come piccoli nei nidi. Quando saranno cresciuti diventeranno qualcuno, giovani plastidi con compito opportuno. Al loro interno ci sono dei corpuscoli, i cloroplasti. Cloroplasti. Per ogni cromoblasto in ogni passo al carotene puoi sentirne il pigmento che ti scorre nelle vene. Osserva bene, scorgerai gocce lipidiche e cristalli, nient'altro che pigmenti arancioni, rossi e gialli. Fusione vessillare è ciò cui servono per animali e insetti che li notano. Passano inosservati gli incolori leucoplasti, magazzinieri di proteine, amide, grassi, radici, rizoma e midollo del fusto, è il loro posto giusto. Come gli amiloplasti dentro zucca e fagiolo, loro sono sedi di amidi, organuli, a granuli, formatisi da un ilo in ogni pianta differente, composti da catene disposte radialmente. Alfa glucosio è il monomero dell'amido e la forma dell'ilo è il carattere diagnostico. L'amido, l'amido, fabbricato e immagazzinato nella foglia, può essere ritrasformato in zucca. Per ogni tono plasto che protegge il suo vacuolo, non è plastide ma ricordati il suo ruolo. Con l'osmosi provvede al turgore cellulare, con le pompe protoniche al pH vacuolare. Tutte membrane doppie ma non questa, l'unica singola ma muove più di una molecola. Chiamala l'eccezione a riconferma della regola. Plastidi persi in crisi di identità, possono ritrasformarsi se ne ha la facoltà. Tranne i cromoplasti che rimarranno tali, tutti gli altri plastidi fanno miracoli rari. In base alla luce, in base al buio presente, possono differenziarsi e diventare ciò che serve. È come una magia o sembra tale, è l'interconversione plastidiale. Gian cloroplasto a sputare l'ATP, col mio bro tono plasto sopra il beat. Buonasera a tutte e tutti, eccoci qui in questo nuovo collegamento con Matteo, anche detto Young Cloroplasto. Sono molto felice di fare questa intervista perché appunto sono molto contenta che appunto Young Cloroplasto ci presenti un po' il suo progetto, che è un progetto musicale, ma lo vediamo tra pochissimo. Allora, se vuoi intanto fare ciao, proviamo la voce. Ciao Addu, ciao a tutti, tutte, okay. Ascoltatori, ascoltatrici. Dai. No, mi senti? Sì. Sì, perfetto, perfetto. Senti, allora, inizierei subito con la prima domandina, che vabbè, è forse anche scontata, ti chiederei magari di presentarti, dire un po' chi sei, quello che vuoi dire e un po' il tuo trascorso. Ok, allora io mi chiamo Matteo e vengo dalla provincia di Ravenna. Ho avuto la fortuna di nascere in un ambiente, una famiglia. Le piante avevano un ruolo importante, ecco, e dopo le scuole superiori, anche grazie all'università, ho iniziato ad addentrarmi sempre di più nel mondo delle piante e dopodiché ho iniziato a sì, insomma, ad appassionarmi in maniera sempre più approfondita a questo mondo e quindi niente, piano piano è nato questo progetto che è stato un progetto parallelo alla mia vita, ad altri progetti che erano poi il lavoro, l'università successivamente. E lavoro di nuovo. E niente, al momento mi trovo in Francia e ho iniziato da poche settimane una scuola di circo come giocoliere. Wow, veramente poliedrico. Senti, quindi ecco appunto, in fatto di piante, la tua, diciamo, anche passione, ma più che altro la tua conoscenza deriva, mi dicevi, fuori ai microfoni, dallo studio all'università, che era università di... È l'università di erboristeria, Ecco. in realtà il nome è l'indirizzo di tecniche erboristiche sotto la facoltà di scienze farmaceutiche applicate, e che è una facoltà di Bologna, appunto. E io ho studiato a Imola e appunto dopo aver fatto l'elettricista per 2 anni e mezzo, ho pensato che sarebbe stato bello fare un lavoro che mi piaceva un po', perché non mi divertivo molto a stare a fare l'elettricista industriale. E allora ho iniziato a pensare a come potevo effettivamente migliorare proprio la qualità della mia vita, ecco, perché si trattava proprio di quello, dato che il lavoro è un aspetto della vita abbastanza totalizzante, no? Certo. Credo un po' per tutti, per tutte. Certo. E a quel punto ho iniziato a pensare come potevo migliorare questo aspetto della mia vita, dato che quando mi svegliavo al mattino non ero contento di andare a lavorare e ho pensato che ero troppo giovane per Non essere contento, giusto. fare già esatto, per non essere già più contento della mia vita, del mio lavoro. E allora, dato che nella mia famiglia c'è comunque un po' di attenzione sia al mondo delle piante in generale, in quanto vivo in campagna, abbiamo un giardino molto ampio di mezzo ettaro dove dedichiamo molto tempo, molte attenzioni e anche molto relax, perché poi il bel verde vicino a casa è anche quello. Certo. Mio padre e mia madre hanno sempre fatto l'orto, mi hanno sempre avvicinato, ecco, anche al mondo alimentare delle piante e poi, non di meno, anche al mondo erboristico, quindi al mondo delle cure naturali. E quindi ho pensato che poteva essere uno sbocco lavorativo interessante. All'inizio non c'era ancora un amore verso lo studio delle piante che poi si è sviluppato dopo. E quindi ho scoperto per caso, parlando con un mio caro amico, mentre eravamo in viaggio, mi disse che esisteva questa facoltà, che lui avrebbe voluto farla, ma che poi non l'aveva mai iniziata. E io ho detto: ma come, esiste la facoltà di erboristeria? Ma stiamo scherzando, allora io la voglio fare. E a quel punto ho riflettuto un po', ho iniziato a studiare per il test d'ammissione, dopodiché ho mollato il lavoro. Che fra l'altro era un lavoro veramente troppo comodo, era 7 minuti da casa mia, era fantastico a livello di comodità, era tanto comodo quanto deludente come lavoro. Capisco. E quindi niente, okay. È iniziato questo percorso e mi seguivo. E allora però a questo punto mi viene da chiedere, cosa c'entra la musica in tutto ciò? E questo ce lo dici te, appunto. Quindi a questo punto ti chiederei come è nato il tuo progetto musicale, magari ce lo descrivi anche un attimo, e in particolare mi interessa sapere come mai hai scelto il nome Young Cloroplasto, se c'è una ragione specifica. Ok, certo. Sì, allora, io all'università ho iniziato a studiare e mi sono dovuto riapprocciare al mondo dello studio, e proprio per questo la musica è stato uno strumento utile per me. Quando mi sono trovato a studiare, ho visto che c'erano tantissimi termini, concetti che erano veramente difficili per me da memorizzare e che al tempo stesso però mi interessavano tantissimo, e soprattutto poi mi interessava anche andare bene all'esame. Dato che io ascolto rap tutto il giorno da anni, le rime della filastrocca sono nate non come filastrocche, ma sono nate come rap, e ho iniziato inizialmente a fare solo 2-3 rime e ho detto bella, ce le ho così e queste due frasi me le ricordo e funzionano. Dopodiché ho dovuto aggiungere degli altri concetti e è venuta fuori una sorta di strofa. E avevo una strofa e ho detto, va, guarda, che carina, suona anche bene. E poi dopo ho pensato che potesse essere interessante avere una canzone, perché no? Non c'è un perché, certo. Perché no? Certo. E mi sono reso conto che mi divertiva molto comporre, mi divertiva molto fare il rapper, cioè provare a fare quella cosa che avevo ascoltato per anni e basta. E mi sono rivolto a un mio amico che si chiama Tim, che poi in arte è diventato Tonoplasto, e infatti nelle prime 2-3 canzoni c'è proprio la produzione di Tonoplasto. Certo, ok. E Tim è un mio caro amico che è completamente estraneo al mondo delle piante, ma che è molto dentro al mondo dell'hip hop, al mondo del rap e in particolare al mondo del beatmaking. Lui ha sempre fatto beat già in tenera età e quindi mi sono rivolto a lui e gli ho detto, guarda, se riusciamo a fare un beat, io ho delle strofe e facciamo una canzone, vediamo cosa viene fuori. E niente, dopodiché nel frattempo, mentre studiavo, c'era questa pagina sul mio libro di biologia vegetale in cui c'era tutto il processo di trasformazione dei plastidi, che appunto sono questi organuli all'interno della cellula vegetale. Uh-huh. Che hanno varie funzioni, no? E c'era una fase dell'evoluzione del plastidio dove si era formato un cloroplasto e c'era scritto giovane cloroplasto. Ok. E io ho detto, caspita, giovane cloroplasto, se fossimo in America sarebbe Young Cloroplasto, e Young è proprio il nome che hanno tantissimi rapper dentro al loro nome d'arte, no? Quindi sì, certo. Esiste Young Thug, esiste Young Weezy, ne esistono di Young. E allora, per ridere con un mio amico che ascolta rap come me, gli ho mandato questa battuta così, e poi dopo ho pensato che potesse essere un nome, se esistesse un rapper che parlasse di vegetali sicuramente si chiamerebbe Young Cloroplast e quindi sei diventato, e dato che sì. bello interessante, e poi niente. E dopo si è aggiunto, quando abbiamo inciso la canzone, si è aggiunto un altro carissimo amico che è Babbe, in arte Gourmet Beats, che invece si è occupato della parte più tecnica più clinica, musica, quindi si è occupato della parte di una registrazione fatta in una qualità migliore. Ha studiato come tecnico del suono all'Università di Torino e quindi con lui abbiamo curato tutta la parte di, diciamo, messa a punto delle canzoni. E successivamente poi mi ha anche prodotto diversi beat, ecco, per le canzoni che sono venute dopo. Ok, ho capito. Quindi senti, una domanda che, vabbè, forse puoi rispondere anche in modo molto breve, non so. Ti volevo chiedere quindi se c'è, qual è l'obiettivo di questo tuo progetto musicale, nel senso, boh, magari l'hai pensato, voglio appunto diffondere la conoscenza botanica però in un altro modo, oppure se è giustamente, come può essere, anche solo una cosa di piacere, di divertimento. Ok, ma inizialmente è nato egoisticamente per il mio studio. Poi nel momento in cui ho deciso che non erano più solo delle strofe ed era una canzone, a quel punto è nato anche per poter, diciamo, condividere questa cosa che io ritenevo simpatica, ritenevo anche un po' comica, un po' diversa, interessante, ecco, perché non avevo mai visto l'unione tra questi due mondi, no? E quindi è nata anche per poterla condividere con, in primis, con i miei compagni di corso, che poi fra l'altro hanno partecipato, fatto partecipare anche in una canzone, e successivamente poi, quando ho visto che comunque mi piaceva molto e c'era un bel feedback da parte loro, ho pensato che sarebbe stato bello condividerle col mondo, e quindi sarebbe stato bello in primis aiutare altri studenti che potevano beneficiare della musica per la memorizzazione, certo. E okay, soprattutto per gente che poteva condividere con me lo stesso trip, cioè il fatto di vedere questi due mondi che si uniscono, perché solitamente chi studia le piante non è spesso vicino al rap. Io non ho ancora conosciuto tante persone, chiaro, chiaro, che studiano la botanica e sono vicine al rap, e è veramente, secondo me, un mix che ho visto poco nel mondo, e ti dico, è bello, tra l'altro, condividerlo, e, certo, ed è bello farlo esistere, certo. Tra l'altro, perlomeno per quanto mi riguarda, ha fatto centro sta cosa, nel senso che è il motivo per cui mi piace un sacco il tuo progetto, perché appunto fonde questi due mondi che di solito sono molto distanti. Poi io appunto non è che sia un'appassionata di rap, quindi magari posso anche beneficiare meno, forse in un certo senso, no, di questa cosa, però sì, c'è, cioè, il fatto di unire appunto, di far vedere che una persona può essere entrambi, no? Può apprezzare il rap e anche le piante, e far vedere che queste cose non vanno in contrasto e anzi si fondono, è strafigo. Allora, quindi poi... Tutto quello di cui noi ci nutriamo proviene dalle piante. Tutto l'ossigeno che noi respiriamo proviene dalle piante. Senza le piante la terra sarebbe priva di vita. Capolino stai, senza mai, senza capolinea, per erba li sbonsai, parliamo di asterace, in maggior parte erbace, con fiore colorato e vivace, sai che al pro nubio piace, con nubio efficace, crisantemo, arnica montana, bardana, calendula, camomilla, comune o romana, anfiori ligulati e tubulosi, spesso insieme a colorare giorni uggiosi, fanno un androceo, cinque stami con antera, carichi di polline in dono per l'atmosfera, sarà nuovo seme insieme al gineceo, con uno stigma unico, solitamente bifido, ed ovario infero che tiene in grembo l'ovulo, giovane discepolo che rappresenta un popolo, 23.000 specie che respirano all'unisono. Ora sei corrente della green knowledge, baby, chiama le composite, non cambia ciò che vedi, sono più entomofile, fiori ermafroditi tubulosi, sono asimmetria radiale numerosi, corolla tubulare, chiamo petala e flower apoteosi, tutto intorno ad essi, altre floscoli nei pressi, ciò che credevi petali, sono fiori amletici, di sesso femminile, ordinati, a volte sono sterili, ma sempre ligulati, in serie messi a cerchio organizzati, disposti con cura, progettati, solo con occhio attento puoi notarne i connotati, considerali il marchio di ingegneri ricercati, frutto che è un achenio con un pappo per volare, o a volte con l'uncino se si attacca all'animale, puoi chiamarlo achenio, poliachenio, sempre più parti, ma sempre semi avrà da darti fra, e nuova pianta crescerà. Ora stai corrente della Ceroster, poche piante a foglie opposte, in ordine alterno sono solitamente poste, a volte coriacee, a volte meno robuste, in alcuni casi di tricomi provviste, sempre foglia semplice o almeno così detta, puoi trovarla larga o più o meno stretta, in alcuni casi è penna tossetta, quella del carciofo basala rosetta, a volte pure ostica, punge ma non morsica, foglia che ti medica, preziosa come un'ostrica, dammi tre parole tipo acqua, seme, sole, assenze, topinambur, girasole, da luglio a settembre fioriranno sulle uole, piante sulla terra in gentile concessione, muovi il fusto a tempo se stai nella dimensione, questo è il nuovo vibe di una green generazione. Ora stai corrente della green. E questa era Le Asterace, Asteracee di, ovviamente, di chi? Di Ian Cloroplasto, chiaramente, quindi questa era la seconda canzone sua che vi faccio sentire, la prima che ha introdotto l'intervista era Plastide per sempre, io ve ne metto un'altra adesso, no, questa ve la metto dopo, scherzavo, ecco, vi metto Le Lamiace, quindi ci sentiamo ancora questa insieme e poi riprendiamo con l'intervista, ancora non è finita, anzi c'è una bella metà ancora, quindi ne saprete di più. Oh Young, ma dovevi proprio fare una canzone sulle Lamiace? Ma sì, dai, perché secondo me come famiglia è veramente bella, poi è anche super stilosa, no? E ha una certa sensualità tutta sua e ogni specie ha proprio un aroma a sé, no? Ma io posso stare qui a parlare, ma in natura c'è poco da spiegare, vedi è inutile ogni idioma, capirai presto l'assioma, dice trovi la radice che è rizoma, poi continua col pigmento che si intona, entomogama di fatto, l'insetto che lavora senza peso di un contratto, senti il forte aroma, però il senso poi va oltre il solo senso dell'olfatto, sopra il senso estetico, se predico sul beat, sono tipo 10 feet, sopra ad ogni standard metrico, fiore zigomorfo, pentamerico, di forma è una bocca bilabiata, due lembi superiori sono saldati l'uno l'altro tipo colla, tre lembi stanno fusi insieme chiama la corolla, due o quattro stami, quattro acheni, quattro barre in quattro quarti, ovario in quattro parti, fusto quadrangolare nel tipico esemplare, madre quante cose inventi, quante rime che ho da darti. I know you want to smile, girl. è tutto oro, è verde ciò che brilla, tra timo e calaminta si è dipinta la scintilla, opposta e degustata, spesso semplice la foglia, fiori sono i nodi sopra il caule oppure fusto, che sia come dirsi voglia, sono vertici lastri, formano spicastri, quasi intenti arrampicarsi sulle cime, è difficile da dirsi, più facile da farsi come rime, sopra fusto, foglie e fiori, apparati secretori, peli ghiandolari sono più che necessari, essenziali, contengono degli oli nelle teste apicali, profumi primordiali negli assoni neuronali, danno estasi, alcoli ed esteri, ispirano i miei testi beat, metaboliti secondari sono in sintesi, divina intelligenza sempre insita, non possiede antitesi, si districa, orchestra ogni molecola ed è sinfonia magnifica. Ti volevo chiedere anche, scusa, se appunto le prime canzoni ci hai detto che erano nate per un bisogno di memorizzare, se magari nelle ultime invece il processo creativo è un po' cambiato magari, se appunto ti come ha funzionato nelle ultime canzoni la stesura del testo, diciamo. Sì, allora... Sempre bello fare queste interviste perché, cioè interviste o quando le persone ti chiedono le cose perché scopri delle cose su cui magari prima non avevi mai ragionato così a mente fredda, quindi ti ringrazio. Figurati. E diciamo che sì, dopo le prime due canzoni, che se uno le ascolta poi si rende conto che c'è un filo puramente mnemonico, puramente di studio, che si sbilancia poco sulle emozioni mie. Dalla terza canzone, cioè quella del Ginkgo Biloba, invece la scrittura è diversa, c'è un obiettivo diverso che non è più solo quello di dire memorizzo dei concetti, ma c'è anche un obiettivo di prima di tutto di esprimermi, quindi di mettere dentro una canzone quello che mi fanno vivere le piante a me, come le vedo e come le vivo, e soprattutto anche un messaggio di, credo, sensibilizzazione, poi non so poi quanto arrivi o meno, ma per me già il fatto che uno dica ah, una canzone rap sulle piante, aspetta che la ascolto, per me già quella è sensibilizzazione, quindi certo. pensare che ci possano essere delle cose interessanti nel mondo delle piante, o che possono essere messe sopra un beat, e il beat poi possa essere interessante, per me già quella è sensibilizzazione. Quindi quando uno mi dice anche solo guarda Matteo, io non ci ho capito nulla, però ho mosso la testa, io ho detto bella, ho vinto, ho fatto il mio. E quindi sì, dopo sono cambiato anche io, perché durante gli studi mi sono appassionato in maniera sempre più forte, mi sono innamorato, se vogliamo dire, di questo mondo, e durante il Covid poi ho anche avuto modo di approfondirlo con tutta la calma che abbiamo avuto tutti durante il Covid. E mi sono appassionato sempre di più al mondo delle piante selvatiche, e quindi dopo è diventato una cosa anche per diffondere questo tipo di conoscenze che secondo me sono utili e interessanti, quindi non è diventato più un progetto finalizzato alla memorizzazione, ma anche proprio a dire ehi, guardate, il mondo delle piante può essere interessante per tante cose. Ho capito. Senti, a proposito anche di questo, mi sembrava giustissimo far riferimento al fatto che, allora, intanto le tue canzoni si trovano anche da YouTube, e questo può essere utile a sapere, e che nella descrizione, appunto, del video, della canzone, metti anche un link per andare a capire e studiare anche volendo meglio il testo. Quindi mi sembrava super bella anche questa tua iniziativa che fai proprio te attivamente, appunto, se ho capito bene, prendi verso per verso e se ci sono termini magari difficili o allusioni o metafore, le spieghi tutte al lato. Sì, esatto, proprio perché io poi ho fatto così per entrare dentro al mondo dell'hip hop americano soprattutto, ma anche quello italiano, quindi andavo sempre su questo sito che si chiama Genius Rap, Rap Genius, al momento poi è cambiato, si chiama genius.com mi pare, e inizialmente era un sito dove c'erano tutti i testi rap spiegati, quindi chi voleva poteva andare a spiegare delle barre che magari non erano immediate. Io ho passato una buonissima parte della mia vita su questo sito per capire delle rime, per imparare anche l'inglese, mm-hmm. e ho pensato che potesse essere un buon mezzo perché così le persone potevano capire dei concetti o dei giochi di parole sulla botanica che dentro la botanica non sono immediati. Certo. E allora ho pensato che potesse essere utile. E non so poi quanto venga utilizzato, però per chi vuole c'è. E il link, come dicevi te, è sotto i link YouTube. Certo. Sì, poi... E soprattutto poi nelle... No, scusa, vai. Sì, no, volevo dire che appunto tutti questi link e riferimenti poi ci saranno nella pagina del podcast di questa puntata sul sito di Radio Wombat, quindi... li spammiamo, non ti preoccupare. Grazie. Vai, scusa, continuo. No, dicevo, soprattutto poi negli ultimi testi, dove in alcune canzoni sono andato sempre di più anche sulla mia maniera di vivere le piante, quindi nella canzone Brevi Diurno, per esempio, c'è più un filone tecnico che lega i verdi, c'è più uno mood, uno stato, e che viene descritto attraverso metafore, giochi di parole sulle piante. La canzone lì in particolare penso sia essenziale per capirla un po', guardare questo sito, perché anche con le immagini e con tante spiegazioni ho cercato di raccontare un po' come si sviluppa il testo. E anche per riconnettermi alla domanda di prima che tu mi hai chiesto se è cambiato un po' l'obiettivo, ecco, penso che lo sviluppo del progetto è andato sempre di più verso l'introspezione, verso di più anche una realtà di scrittura che mi ha preso, e ecco questo. Ok, senti, capisco, anche molto interessante appunto che ci stai facendo visualizzare questo tuo percorso, grazie infatti, e a questo punto se ti va pensavo di chiederti un po' un approfondimento su una canzone, a tua scelta ovviamente, e boh, se ti va di dirci un po' in generale di cosa parla, com'è nata, un po' lo stavi già iniziando a fare con Brevi Diurno, però non so se volevi scegliere questa oppure un'altra. Ma ci sarebbero tante su tutte le canzoni in realtà. Direi forse Ginkgo Biloba ha una storia che mi piace molto. Vai, perfetto. Perché è stata un parto suo, bellissimo, però. Ginkgo Biloba è la terza canzone che è uscita su YouTube ed è stata una canzone che per farla uscire ci ho messo tantissimo tempo perché ho affrontato un argomento, quella del Ginkgo Biloba, che pensavo fosse più semplice, e invece quando mi sono trovato a dover scrivere mi sono reso conto che il Ginkgo Biloba è una pianta molto popolare, quindi se ne parla molto, ma che ha dei meccanismi di riproduzione, per esempio, molto complessi, ed è stata una canzone chiave Intanto perché ci ho messo tantissimo tempo a scriverla, l'ho scritta, poi l'ho riscritta, poi l'ho modificata. Poi inizialmente volevo usare un beat trovato su YouTube, poi ho deciso che volevo usare un altro beat fatto con i miei amici, perché mi piace molto di più creare con i miei amici. E metà beat l'ho fatto insieme a Tim, e abbiamo trovato un sample, abbiamo usato un sample da una canzone asiatica, perché volevamo rimanere nel tema appunto del ginkgo biloba, che è una pianta originaria dell'Asia. E dopodiché è stato modificato il beat da Babbe, e in quanto per ragioni tecniche bisognava fare dei cambiamenti, e dopodiché ci abbiamo lavorato ancora tanto, poi l'abbiamo riscritto. È stato veramente lungo come processo di edizione. Altrettanto lungo è stata la stesura del testo, in quanto non convinceva mai Babbe, e volevo fare una canzone che venisse bene, tutto qui. E a un certo punto ho detto che una canzone meritasse anche un bel video, in quanto mi aveva preso molto tempo, e ho avuto la fortuna che questo ragazzo del mio paese, un amico di mio fratello, si è offerto per farmi il video. Lui si chiama Alessandro Zannoni, fa il grafico di lavoro, disegna cartoni, e avendo visto le mie prime due canzoni ha detto che avrebbe fatto volentieri un video. Questo video lui l'avrebbe fatto nei tempi morti che aveva a lavoro, e dato che lavora tantissimo, questo video è stato completato dopo tipo 2 anni e mezzo. Quindi wow. Per 2 anni e mezzo, 3 forse, io volevo tanto uscire con un nuovo pezzo, ma giustamente non c'era il video. E poi in questi 2 anni e mezzo ho avuto tempo di rivedere tantissime volte la canzone, perché poi sono cambiato anche io come persona in 3 anni. E quindi è stato veramente un parto lunghissimo, e il video poi a me è piaciuto tantissimo, e come poi è piaciuto tanto anche ai miei amici e alle persone che mi ascoltano, quindi sono molto contento. E il ginkgo biloba è un albero a cui sono molto affezionato, perché ne ho 3 a casa, 2 maschi e 2 femmine, essendo una specie di oica, quindi che presenta gli esemplari maschi e gli esemplari femmine, quindi non presenta gli stessi, i due, ma sulla stessa pianta. Ed è una pianta interessantissima perché è una pianta preistorica, quindi è una pianta che ha un meccanismo di riproduzione molto bizzarro e molto antico, e per poter scrivere con esattezza questo testo e non scrivere delle cialtronate, mi sono informato tantissimo su libri, ho cercato tantissimo su internet, ho letto tantissimi paper, perché non volevo scrivere delle cavolate per l'appunto, e mi sono reso conto come la bibliografia del ginkgo biloba sia abbastanza spoglia, e quindi ho veramente ricercato tanto, e a un certo punto mi sono rivolto anche a dei bambini, tra cui Lorenzo Peruzzi, che è un botanico di Pisa, se non sbaglio. Sì, di Pisa. Ed è stato gentilissimo, e lui mi ha aiutato nell'esattezza delle informazioni. E sono molto contento, perché la cosa bella di questo progetto di Ancloroplasto è che in questo viaggio, che è durato anni e magari durerà ancora, chi lo sa, io ho conosciuto tantissime persone, tra cui anche te, Addu, e tantissime persone con cui poi ho legato in maniere anche molto forti, e sono nate tantissime amicizie, sono nate tantissimi lavori anche a volte, ed è questo che mi piace di più di Ancloroplasto, cioè il tipo di connessioni che sono riuscito a fare attraverso una cosa che a me diverte infinitamente. Madonna, è storia bella, veramente, bellissimo. Wow, bisogna assolutamente andare. Beh, direi che a questo punto ce l'ascoltiamo, magari, questa ginkgo biloba, che ne dite? E tra l'altro vi volevo dire, ve le stavo mettendo in ordine cronologico, quindi Plastide per sempre è la prima che ha fatto, la Sterace è la seconda, la terza era Ginkgo Biloba, quindi prima non vi ho messo la terza, vi ho messo la quarta, che è appunto la mia, ce l'abbiamo già sentito, ma ora facciamo un passettino indietro e ci sentiamo la terza, quindi appunto questo Ginkgo Biloba che sono sicura che ormai avete un sacco di curiosità di sentire. Lirico erbalista, frista, quinto dance, spingo l'info allegorista per un ginkgo nella jam. Meraviglia arborea, un'altra pianta, un'altra storia, radici nell'oriente perché l'Asia è la dimora. Millenario slang, nuova gloria, antica flora, scorre un flusso da xilema, poi floema dalla chioma. Monopodiale vetta, sempre eretta, cresce in fretta, con foglia flabellata, fatta a forma di ventaglio, pure setta, bilobata con un taglio, natura si diletta, io mi perdo nel dettaglio di un albero maestro, con lustro senza pari, io sono un ammiraglio, scrivo storie senza inchiostro sulle pagine fogliari, formate da due lembi, separati ma connessi, sono come yin e yang, essenziali ma diversi, bianco e nero in verdi versi. Dualismi ancestrali andati persi. Rifiniture d'oro si muoveranno in coro con il vento dell'autunno. Il verde sarà andato insieme al forte sole diurno. Ma la bellezza organica permane, armonica, dentro a una nervatura dicotomica. Biloba. The yin and the yang. Chiamami giovane Teofrasto, rime che di ramo, il ramo, le incastro sopra ad un macroblasto, con fogliame posto alterno, cosparso, oppure brachiblasto, coi piccioli messi a fascio tipo intarsio, nel maschio vedrai pendere gli amenti, seppur poco appariscenti. Formati da sacche, messi a coppie, poi a spirale, con dentro sacro polline, leggero per volare. Rilascerà il gamete nello spazio archegoniale, poi fecondazione a terra, dentro un ovulo materno circolare. Senza ovario né pistillo, sarà ancora nuova vita, con un seme ricoperto dall'arillo. Aspetta nella polpa, senza colpa, sta tranquillo. Risplenderà col caldo, senza fretta, senza dirlo, fuori dal nascondiglio. Natura è la premura di far crescere ogni figlio. Hai colorato terra con finezza di uno spillo. Spezzo ancora l'attimo, ammirando il tuo dipinto, e tu mi osservi saggia, col pennello ancora intinto. Biloba, the yin and the yang. Una cosa che a me diverte infinitamente. Madonna, è storia bella, veramente, bellissimo. Wow, bisogna assolutamente andare a approfondire questo testo, anch'io non l'ho ancora fatto, cioè l'ho letto, l'ho sentito più volte, però non l'ho studiato effettivamente, quindi lo farò senza dubbio a questo punto. Senti, mi viene da chiederti se si può, se si può sapere, se ci saranno nuove uscite che hai in programma. Allora, in realtà ho fatto uscire al momento quasi tutte le canzoni che avevo in cantiere e che erano pronte, rimane solo una canzone da far uscire e probabilmente uscirà senza un video vero e proprio su YouTube, e dopodiché ho l'intenzione di mettere tutto l'album, che come titolo ha il titolo di Fitosofia, quindi la filosofia delle piante, fito, come prefisso, e mettere tutto questo album su Spotify, in quanto diverse persone me l'hanno chiesto, penso sarebbe bello, di modo che si possa condividere, si possa spargere ancora di più. E al momento la mia vita è improntata sul circo e quindi non ho al momento intenzione di avere nuovi progetti musicali, cioè di continuare questo progetto musicale, però non si sa mai, perché l'ispirazione poi quando arriva, arriva. È sempre giusto, stato così. Giusto, ok. Noi speriamo ovviamente che invece non lo abbandoni e che ci regalerai altre canzoni. E a questo punto quindi ti volevo anche ovviamente chiedere come fare a seguirti, se appunto ci sono le tue canzoni su YouTube, le vorrai mettere poi su Spotify, non so se ci sono altre piattaforme su cui sei. Allora, ci sono, sì, come dicevi, tutte le canzoni su YouTube con i relativi video. Io consiglio sempre di ascoltare le canzoni almeno la prima volta col video, perché ci sono le parole scritte che aiutano molto e tutte le clip utilizzate nei video non sono mai messe a caso, quindi spiegano proprio quello che viene detto con le parole. Ed ecco, questo è. Poi ci sono alcune persone che mi hanno chiesto una copia fisica, che sto considerando anche di fare, ma è un'idea ancora, non ancora del tutto sicuro di farlo. E in realtà poi il mondo delle piante non mi abbandona, nel senso che negli ultimi anni ho creato, ecco, uno spettacolo di circo contemporaneo che si chiama Achillea, e quindi in realtà non è che le piante hanno smesso di appassionarmi, è solo cambiato il canale. Ho capito, ho capito. Molto bello, la creatività è sempre frutto di grandi sorprese, davvero. Senti, ti ringrazio tantissimo davvero di averci raccontato così tanto di te, e a questo punto mi rimane soltanto, come di consueto, di chiederti una pianta storia anche a te. Quindi lo ridiciamo, la rubrica Pianta Storia è una rubrica in cui io chiedo alle persone ospitate qui su Nervature di raccontarmi una loro storia personale dove una o più piante hanno avuto un ruolo importante. Quindi metto la sigla e poi partiamo. I nostri esperti interessati a dialogare con le piante. Pianta Storia. Deve registrarne la sensibilità. Pianta Storia. Allora, intanto, dato che mi hai ringraziato, colgo l'occasione, come un maleducato mi sono dimenticato di farlo all'inizio, ma ti ringrazio tantissimo anch'io, per me è un grande piacere, molto felice di fare questa cosa oggi, ne ho parlato a diverse persone perché ero molto contento, sappilo. Bene, e mi fa piacere. E trovo molto bello anche il progetto di Nervature e in generale, ecco, penso sia una bellissima cosa. E per quanto riguarda la pianta storia, non posso non parlare dell'Achillea, che è una pianta che mi ha appassionato sin da subito, dopo averla trovata, conosciuta bene nel mio giardino di casa e nell'argine del fiume vicino a casa mia. Non so spiegare bene il perché, ho sentito un'attrazione molto forte per questa pianta e me la sono iniziata a studiare da vari punti di vista, sia da un punto di vista teorico ma anche da un punto di vista liquoristico, e ho iniziato a farci un liquore anche e questo liquore mi è iniziato a piacere tantissimo, è iniziato a piacere tantissimo a tanti miei familiari e amici, e nel frattempo questa pianta mi ha iniziato a piacere sempre di più, ho iniziato a notarla ovunque, mi sono reso conto che era veramente ovunque, esce in tantissimi luoghi diversi, e l'ho iniziata ad apprezzare molto per questo, e l'ho iniziata ad adorare proprio. E quando ho iniziato a viaggiare ho iniziato a vedere, cioè vedevo che c'era sempre. E inizialmente ho scritto una poesia sull'Achillea, poi ho scritto una canzone sull'Achillea che si trova sempre su YouTube, ed è una canzone palesemente d'amore, e dopodiché ho iniziato a pensare che avrei voluto manifestare questa attrazione per l'Achillea anche in una chiave circense, in quanto è uno dei miei linguaggi che mi piace utilizzare, e con Giulia Battaglione, che è una mia cara amica, nonché collega, abbiamo iniziato a collaborare, ormai sono 2 anni, e abbiamo creato il nostro primo spettacolo insieme, che prende proprio il titolo da questa pianta, si chiama Achillea, e questo spettacolo è proprio ispirato all'Achillea. Abbiamo fatto tutta la ricerca artistica, danza contemporanea e giocoleria, proprio sull'Achillea, quindi sui suoi significati magici, sulle sue caratteristiche botaniche, sulla sua storia mitologica, e ce la siamo studiata, ce la siamo guardata, l'abbiamo annusata e l'abbiamo portata anche sul palco, perché proprio nello spettacolo utilizziamo proprio dei mazzi di Achillea pendulina secca, che è un'Achillea di colore giallo che cresce alta circa mezzo metro e più, e utilizziamo questi mazzi come attrezzo circense proprio per giocolare. E quindi niente, l'Achillea sicuramente per me è stata una pianta chiave sia di un nuovo modo di vivere la natura in una maniera anche giocosa, e di aver trovato un nuovo anello che mi mancava, cioè tra la botanica, l'erboristeria, le piante e il mondo circense, che sono due mondi che vivono molto molto forte dentro di me, ecco. Wow, che emozione, che bello. Davvero molto molto bello. Ti ringrazio per questa pianta storie. Che dire, ti saluto allora, a risentirci. Ovviamente ora farò sentire tutti i suoi brani in questa puntata, questo era scontato. Davvero grazie mille per esserti prestato e appunto a risentirci per nuove uscite o per comunque contributi anche chissà di altro tipo. Continua anche tu a fare questo bellissimo progetto. Dai, ciao! Ciao Addu, grazie, ciao! Sta roba non è street, viene dritta dal giardino. Sopra il beat non c'è asfalto, è green flow quando rimo. Achillea mille volume sopra il sample, le mie crypto fitta in campo. I BPM del mio cuore vanno in alto. Scaposa, sboccia il tuo calatide d'incanto. Manto bianco a volte rosa, il tuo doppio corimbo muove a tempo con il vento. Io ti guardo come un bimbo e lo divento. 5 ligule a pentamero, nei lati con i tubi alati al centro. Inspiro se ti stringo poi ti sento. Lo faccio per amore, sono come Bobby o Tupac. Flavonoidi e doli, ma non basterà la UPAC. Nomenclatura e scienza qui non rendono l'idea. Se la chimica tra noi trascende questa via euclidea. Canto le tue gesta, è scientifica epopea. E scrivo 1000 miti greci quando cerco la mia dea. Dopo devo chiedere una roba perché ho messo io. È l'Asterace Family, clade degli asteridi indelebili. Mi chiedono perché mai mi son distratto. Tu sarai sempre il mio alibi. Rizomi orizzontali con stoloni sotterranei così abili. Semi dentro acheni con le ali, restano stabili. Protetti da un sottile pericarpo. Piccoli e millimetrici, sollisci senza pappo. Crescono i cotiledoni se rappo. se il mio trip vera hit, foglia B oppure trip, è nato setta, ogni segmento una lacinia vicina, l'arachide è una scusa solo per tenerla stretta, sulla foglia c'era scritta questa barra, forse io l'ho giusto letta, forma lanciolata, fatto breccia, Cupido mi ha colpito sul tallone con la freccia, spero cicatrizzi, questo sangue mi esce in fretta, o morirò d'amore in questa vita che disdetta. Eccola, eccola, questa era Achillea, è proprio una canzone d'amore, c'è poco da fare. Io a questo punto vi metterei l'ultima canzone di Ian Cloroplasto e l'ultima uscita, e così poi l'abbiamo, le avete sentite tutte, e questa è Brevi diurno. Spero che sto sole per stavolta salti un turno sotto la luna bianca come pallido Viburnum, fiorisco in questo buio, mirabili sia l'abba, profumo non si placa mai da qui fino a Saturno, paradiso notturno, in queste lunghe sere ci sto bene, puoi chiamarmi Brevi diurno, rilascio anidride insieme ad un sospiro lungo, faccio zero fotosintesi, micelio dalla luce come un fungo, rime che non vedi ma le senti in notti tacite, scritte in bianco lattice sopra candide pagine, cogli il senso doppio, qualcuno scoppia a piangere, sono pallide lacrime fatte da un frutto labile, contemplo le fagace, fermo il tempo, fugace, si è arrampicato svelto, audace, nascosta dalla fretta, la mia calma ma la vedo, un'edera non può coprire mai del tutto un cedro. In realtà ogni volta resto in bilico, onirico di un cloroplasto tra scientifico ed empirico, Artemide nei sogni parla un alfabeto criptico, per prese di coscienza non serve pensiero critico, fermentano i pensieri mentre sale il grado etilico, o bacche di bacco, un succo dentro al fisico, stacco la mia mente, un po' mitigo il mio spirito, poi apprendo ad una vite questo trittico. Spicci di lunaria nella tasca, fiori con le croci sono cresciuti da una frasca come fosse terra santa, silenzio religioso, questa notte abbiamo splantam, canto questo mantra, un raggio spunta lieve, notturna una sirene, non si tiene, il calice si incurva, vuole solo addormentarsi, io sto aspettando il sole in una giovanile turba, cerco solo la mia umana filottassi. Sono io, non ci sei, forse sei già uscito. Volevo dirci, ricordami di raccontarti il sogno che ho fatto stanotte, perché ci sono un sacco di cose strane. Va bene, allora magari ci becchiamo dopo. Ciao. Ed eccoci, eccoci qua, spero abbiate apprezzato questa intervista, questo contributo, volevo dire. E allora passerei quindi alla seconda parte di questa puntata, ovvero i lavori del mese, anche perché lo so che fremete, siete lì con i guanti, le forbici e la vanga in mano e non sapete cosa dovete fare, vi guardate in giro e dite oddio, che cosa faccio, che cosa taglio, che cosa ribalto, che cosa ripianto. E lo scopriamo insieme, allora, dai. 30D conta le gemme. 30 di Conta le gemme. I lavori del mese. Direi tornate con i lavori del mese. Quindi abbiamo fatto un po' di pausa estiva e poi, vabbè, io non ho trasmesso per un po' di volte, perdonatemi, perciò ripartiamo adesso in quarta, che siamo, vabbè, fine settembre ormai. E infatti cosa facciamo oggi? Cerchiamo di fare i lavori del mese per settembre-ottobre, cioè un po' un misto di tutte e due. Comunque si parla in ogni caso di una stagione autunnale, soprattutto quest'anno l'autunno è già iniziato da un po', direi, non c'è un'estate tardiva, cioè diciamo prolungata come è stato altri anni, per cui parliamo sicuramente di autunno. Quindi rieccoci con noi con la giardiniera Cecilia, di nuovo finalmente ai nostri microfoni, e illuminaci. Ciao a tutti, ben ritrovati. Dunque, in questa pausa estiva verbale non lo è stato a livello lavorativo, perché anche in piena estate comunque il giardino chiede la nostra attenzione, ma adesso ci conviene concentrarsi su questa stagione entrante, come diceva Addo, è già un autunno bello conclamato. E allora vediamo cosa fare in questo periodo. I lavori sono davvero tanti, e non solo, devo dire che tante sono anche le aspettative dei nostri clienti, e quindi siamo partiti davvero con la quarta marcia e stiamo ingranando anche la quinta. Quindi tanto tanto lavoro, e cerchiamo di capire nello specifico le fasi più importanti. Pensavo di fare, a differenza delle altre volte, una sintesi degli interventi e poi calarmi un pochino più nello specifico sulle varie attività. Quindi in pillole, quello che è importante fare in questo periodo, che coincide con l'inizio dell'autunno, quindi fine settembre, tutto ottobre, allora naturalmente la pulizia delle aiole, che è un leitmotiv che non ci abbandona mai in giardino, che corrisponde quindi al diserbo, alla pulizia quindi delle nostre aiole, e anche alla pulizia delle siepi, quindi comunque un intervento anche con forbici in mano o forbicioni per la pulizia delle siepi. Ma poi dirò nel dettaglio cosa conviene o non conviene toccare in questo periodo, che comunque è a ridosso del freddo. Poi siamo ancora in tempo sicuramente per la divisione dei giaggioli. Farlo entro la metà di ottobre può essere molto vantaggioso, perché dividere i giaggioli da rizomi adesso ci permette di avere una ottima fioritura primaverile. Questa operazione la possiamo fare anche più avanti, ma a scapito della fioritura primaverile. Un'altra cosa, sempre nell'ambito della pulizia, cerchiamo anche di pulire le aiole dalle foglie che cominciano a cadere in modo sostanzioso, quindi a catastarle da qualche parte per creare il nostro compost. Quindi improntare il nostro compost è una pratica molto importante. Poi l'autunno, come gli ascoltatori sicuramente già sapranno, è il momento ottimale per pensare a nuovi impianti, quindi di qualunque tipo di varietà, dagli arbusti alle alberature, soprattutto direi alberature, ma anche piante mediterranee per le zone più miti. Quindi se ci sono zone deboli nel giardino, provvediamo con un progettino adesso a procurarci le piante e metterle a dimora. Quindi questo va di pari passo con tutto, diciamo, un capitolo più ampio, che potrebbe essere quella della progettazione e del restyling del giardino. Questo è il momento per ripensare anche in toto il proprio giardino, in tutto il planting, sia di tappeti erbosi, di prati, che di aiuoli, siepi e alberature. Un'altra cosa che non va mai mollata, e che questo anzi che richiede tanta attenzione e osservazione in questo momento, è il controllo delle malattie fungine, che in una situazione ancora di caldo umido rischia di sfuggirci di mano. Quindi cercare di individuare eventuali patologie in questo momento e intervenire, individuarle, sapere dare un nome e cognome e intervenirli con i rimedi ad hoc. Ci sono anche rimedi naturali in questo senso. Ecco, questa è una panoramica molto sintetica di quello che è possibile e doveroso fare in questo momento. Se vuoi, ci possiamo calare più nello specifico. Certo, ovviamente. E, non lo so, potremmo secondo me partire dalle potature, che è sempre un tema un po' spinoso, certo. Per così dire spinoso. Certo. Dunque, allora, prima di iniziare il lavoro di potatura, quindi di taglio, è importante che i nostri attrezzi siano ben disinfettati e affilati. Affilare è importante per operare un taglio netto e deciso in modo che la linfa possa più velocemente cicatrizzare il taglio e disinfettarle proprio per evitare di passare ipotetiche malattie da una pianta all'altra. Cosa si pota in questo periodo? Qui c'è da fare una distinzione piuttosto importante e fondamentalmente la grossa discriminante è capire se i nostri arbusti sono a fioritura, cioè se fioriscono sui rami prodotti l'anno precedente o sui rami dell'anno. Perché questo è importante, perché se andiamo a potare in modo, diciamo, medio deciso un arbusto che fiorisce su rami vecchi, andrà a scapito della fioritura, la potatura fatta in questo momento. Quindi è molto importante sapere questa cosa. Ma io posso provare a farvi anche una listina in questa occasione di quali sono le piante da potare senza privarci della fioritura nel loro momento. Allora, intanto le rose rifiorenti, quindi rose che rifioriscono più volte nella stagione, queste si possono potare non certo con una potatura di forma che si opera a fine inverno, ma sicuramente conviene comunque intervenire a togliere lo sfiorito, tutti i rami e tutte le ramificazioni che sono andate a fiore fino a questo momento e hanno su fiori sfioriti, eliminare il secco e anche eventualmente areggiare cercando di dare più una forma allargata al cespuglio. Potare adesso ci conviene perché nell'ambito delle rose rifiorenti queste ancora possono riprodurre ancora fiori prima dell'inverno, quindi questo sicuramente ci conviene farlo. Poi, per quanto riguarda un'altra pianta diffusamente utilizzata nei giardini, le ortensie, senza calarsi anche qui nelle varie famiglie che sono tante e ci vorrebbe un capitolo a sé, diciamo che in senso generale conviene sempre tagliare i fiori secchi, i quali sono ancora molto belli, e quindi anche portarli in casa per fare le composizioni secche. Tagliamoli sopra la prima doppia gemma robusta. Non tocchiamo i rami nuovi che hanno prodotto recentemente, perché questi potrebbero portare i fiori nell'anno successivo. In questo momento per le ortensie è proprio possiamo davvero adottare questo metodo uguale per tutte le specie. Mi raccomando, solo potature di pulizia. Per quanto riguarda le lavande, siamo già un po' oltre, diciamo, al periodo canonico della potatura delle lavande, ma se ancora non è stato fatto, potate le vostre lavande senza toccare la parte legnosa. Quindi diamo una forma, diciamo, a cuscino alla nostra lavanda possiamo anche appunto raccogliere poi i fiori e farne dei purpurri o sacchettini profumati. Per quanto riguarda le spiree, anche queste, soprattutto a Firenze, molto utilizzate, poiché molto utilizzate anche nei viali di circonvallazione, allora le spirea estive, a fioritura estive come le japonica, vanno potate molto leggermente e levato lo sfiorito, quindi la parte poco estetica. Per le spiree invece, ad esempio le vanutti, quelle che sono sul viale dei Colli a Firenze, è già un po' tardi potarle, quindi io direi eventualmente, se proprio il nostro arbusto è molto molto denso e un po' soffocato, diciamo, dalla vegetazione, conviene togliere dei rami centrali dalla base. È importante sapere che le Spirea vanuti fioriscono sui rami prodotti l'anno precedente, quindi se operassimo una potatura drastica, decisa, porterebbero davvero pochi fiori alla primavera successiva. Per quanto riguarda ad esempio i Caryopteris, che sono piante molto belle a fioritura autunnale, sono adesso in fiore, aspettiamo che sfioriscano per poi accorciare i rami. Questo è molto importante perché una potatura adeguata adesso permette di avere un arbusto molto bello il prossimo anno, quindi va fatto subito dopo la fioritura, che andrà a finire a giro di giorni. Quindi tra pochi giorni, diciamo entro ottobre, possiamo tagliare lo sfiorito del Caryopteris. Gli oleandri, anche questi molto molto diffusi ormai, anche perché sono decisamente di grande effetto nel periodo estivo, quando le fioriture cominciano a scarseggiare col grande caldo, anche qui solo una potatura di forma. L'oleandro può essere potato in modo drastico a fine inverno e lui fiorisce invece su rami dello stesso anno, quindi diciamo possiamo un po' sbizzarrirci con le potature. Altri arbusti molto utilizzati, se ne vede parecchi anche a Firenze e nelle campagne, sono le Budleia, l'albero delle farfalle. Anche questo molto spesso sfugge di mano perché è un vero albero, ossia un arbusto veramente molto molto grande, conviene ridurlo in questo momento, riportarlo a un'altezza desiderata, e anche perché se lo lasciamo andare le fioriture sono molto apicali e quindi non si apprezzano se lo lasciamo andare in altezza, invece conviene riportarlo ad un'altezza vista a occhi, e quindi lo possiamo fare ora. Anche questa, la Budleia, tagliamo sopra sopra una bella doppia gemma, perché fa le foglie alterne opposte e quindi è facile individuare la gemma giusta. Potrei dilungarmi ancora, ma direi che fondamentalmente per quanto riguarda gli arbusti più utilizzati mi sono un po' espressa. Potrei invece aprire il capitolo sulle potature da non fare in questo momento. E come accennavo prima, sono quelle piante che fioriscono sui rami prodotti l'anno prima. Per citarle alcune, faccio qui un elenco: la forsizia, la camelia, la zalea, i lillà, i viburni invernali, la magnolia, la spirea, ve l'ho già detta, la spirea vanuti. Ecco, queste sono tutte piante che conviene non potare, o proprio se dobbiamo, potatura per ridare una leggera forma e riportarle un pochino a una dimensione più bassa eventualmente. Per quanto riguarda invece le piante sempre verdi, come ad esempio gli arbusti mediterranei come il ligustro, il lauro ceraso, il bosso, il mirto, la lentaggine, la fotinia, anche queste non conviene potarle in modo drastico, perché i sempreverdi si potano lontano dai freddi, e una potatura decisa la possiamo fare nel centro-sud Italia, ma sicuramente non a ridosso degli Appennini, in montagna o al nord della penisola. Questo mi sembra già un discursus abbastanza... Assolutamente, appunto, come dicevo, la potatura è veramente un grande argomentone tra i principali, tra i fondamentali nella cura delle nostre piante. A questo punto mi verrebbe da chiederti cosa ci puoi dire a proposito della riproduzione delle piante. Quindi ci hai già parlato per esempio della divisione dei giaggioli, questo si è già detto, ma c'è in questo periodo altri appunto metodi di riproduzione efficaci da fare? Eh sì, assolutamente, questo è proprio il periodo migliore per il taleaggio, quindi per riprodurre da talea, ossia cloni, le piante che vogliamo riprodurre appunto. Per cui sì, è assolutamente il periodo migliore perché non è più così caldo, però ancora il clima è piuttosto mite, il sole non è infuocato e quindi è davvero il momento ideale e più o meno in questo periodo si possono riprodurre tutte le piante. Io per esempio ho già iniziato con tutte le piante mediterranee, ho fatto quest'anno una produzione notevole, devo dire, e l'ho iniziata, diciamo, la prima settimana di settembre, già vedo ora i risultati, insomma, mi stanno proprio attecchendo molto bene. Ma possiamo anche riprodurre rose, arbusti di qualunque genere, sia decidui che sempreverdi. Telaggio è un'operazione facile, alla portata di tutti, la possiamo fare con zero attrezzature, c'è da munirsi soltanto di un terriccio inerte, cioè non concimato, molto sciolto, infatti suggerisco anche di apportare insieme del terriccio appunto poco turboso ma molto molto fine anche della sabbia che ci aiuterà nel drenaggio. Perché il nemico principale della talea è il ristagno idrico e quindi i marciumi radicali che si possono formare durante il periodo di attecchimento della nostra talea. Se apportiamo un terriccio molto molto ben drenato con sabbia o agriperlite o argilla molto spezzettata, molto molto fine, i risultati saranno sicuramente positivi. E poi io per produrre più piante possibili mi avvalgo anche degli ormoni radicanti. Che è una polvere che facilita appunto e accelera il processo di radicazione delle nostre talee. Questo prodotto lo trovate in qualunque agraria, cooperativa di legnaia qua a Firenze, ma credo anche, insomma, anche in vivai, in garden, in vivai specializzati, potete trovare questo prodotto. Cosa si talea in questo momento? Per quanto riguarda gli arbusti, vi dico quello che io ho fatto fino adesso. Ho qui la lista davanti perché naturalmente mi segno le cose e le quantità. Comunque, io sono partita proprio da Mediterranee, quindi alloro, lavande di vario genere, rosmarini, salvie ornamentali, sia salvie officinali che salvie su frutticose ornamentali, timo, mirto, pitosforo, bosso, santolina, elicriso, flomis, queste per citare le più diffuse. E poi ho anche taleato rose, ortensie, la budleia, la veigelia, delle abele, il Caryopteris, la forsythia, un po' quelle che dicevo prima, che sono le piante che utilizzo molto nei giardini, ma ancora rose, gelsomino, il glicine, la passiflora e insomma tante altre piante. Questo è un po' la base, diciamo, di quello che faccio in questo periodo. E ci sono delle regole anche qui di base da seguire che valgono un po' per tutti gli arbusti che ho citato, cioè come si fa a fare la talea. Allora, ci sono dei tutorial molto molto esaustivi online, per chi non avesse mai fatto, consiglio di vedere qualcosa. Un sito molto serio, secondo me, è il Portale del Verde. Lì trovate tantissime interviste e tutorial a specialisti del settore che vi fanno vedere tantissime cose, vi si apre un mondo, ma in ogni caso, diciamo, la regola base è riuscire a prelevare la talea, cioè il rametto dalla pianta madre giusto e qual è il rametto giusto. Per le piante da fiore, come ad esempio le rose, si cerca sempre di tagliare un ramo dove la rosa, il fiore ha sfiorito da poco, quindi dove sulla punta c'è ancora la rosa sfiorita. Quello è il ramo che più rapidamente andrà a fiore. Comunque deve essere di un diametro tra i diciamo da la metà di un lapis, per capirsi come diametro, quindi 4 o 5 mm circa, e dobbiamo prelevare le nostre talee, cioè i nostri rametti da taleare dovranno avere 4 gemme e solitamente si interrano 2 gemme nel terreno e 2 restano fuori dal terreno. Si levano tutte le foglie, si lascia solo la foglia apicale che spesso viene tagliata a metà quando la foglia è grande per evitare evaporazione, e questa insomma è la base un po' per gli arbusti da fiore, mentre per le aromatiche, rosmarini, salvie, lavande, elicriso per esempio, si preleva il rametto e attecchiscono molto bene quei rami un pochino più legnosini, ma non troppo, devono essere semilegnosi, quindi qui ci vuole un po' di esperienza, ma insomma lasciare comunque tutta la fogliolina apicale e lavare e togliere invece le foglioline lungo il ramo. Ripeto, descritto così a voce non è una facilmente comprensibile. Probabilmente conviene davvero andare a sbirciare un po' online. Sì, un po' di foto, un po' di tutorial, giustamente, e poi provare. Certo. Tra l'altro è sempre super soddisfacente riprodursi da soli le proprie piante, sì, in qualsiasi modo. La cosa importante, naturalmente, come legata al fatto dell'acqua, del marciume, eccetera, è l'utilizzo dell'acqua. Intanto nebulizzare, quindi procurarsi una di queste boccettine che nebulizzano, bagnare nebulizzando la talea e tenerla in un ambiente ombreggiato ma luminoso, quindi non ai diretti raggi del sole. Non deve essere alle intemperie, perché se ci piove troppo poi si marcisce, quindi in un ambiente protetto con una serrettina. Tante volte viene usata anche la bottiglia rigirata, perché è importante che abbia il giusto grado di umidità per non disidratare il rametto, appunto. Quindi l'uso dell'acqua, il giusto uso dell'acqua è fondamentale. Perfetto, questo approfondimento sulle talee ci piace molto. Forse c'è un ultimo argomento di cui ci volevi parlare, giusto, riguardo alla cura del prato in particolare? Certo, allora il prato esce da un'estate torrida e siccitosa e quindi è molto provato. Possiamo sicuramente intervenire sul prato ed è il momento giusto. Dunque, qui dipende un po' da che tipo di prato vogliamo o abbiamo. Io per esempio sono molto contraria ai prati all'inglese super irrigati, anzi diciamo cerco di disincentivare totalmente l'utilizzo dei prati che richiedono comunque nella stagione vegetativa estiva un utilizzo dell'acqua consistente. In ogni caso, laddove ci sono i prati e abbiamo un prato molto impoverito per diversi motivi, conviene sicuramente concimarlo in autunno. Quindi un'operazione molto molto semplice potrebbe essere o spargere il concime organico a spaglio sul prato e poi bagnarlo, oppure, per essere più incisivi, cercare di arieggiarlo, perché un prato invecchiato è molto duro, diciamo, ha una crosta molto dura, crea degli stoloni impenetrabili, quindi quello che conviene fare è, con un apposito macchinario che si chiama arieggiatore, cercare di incidere questi stoloni, tagliarli in modo da far entrare aria, e a quel punto concimarlo leggermente, in modo che questo concime penetri più rapidamente in profondità. Questa è un'operazione che conviene assolutamente fare per una manutenzione di un prato che sia non solo bello ma anche sano e vigoroso. È anche il periodo canonico e ideale per la semina dei prati, sia che si voglia fare un prato ex novo, sia nel caso in cui aree del nostro prato per diversi motivi sono totalmente impoverite o inesistenti, quindi il terreno è nudo, allora possiamo fare ugualmente delle semine specifiche. E qui naturalmente sono due le strade. Se dobbiamo fare, se voi giardinieri avete il cliente che deve, che richiede una porzione di prato, allora va lavorato il suolo nel modo giusto, in modo che la semina non sia sprecata, quindi che in modo che si affranchi rapidamente il seme. Per farlo solitamente si lavora la crosta superficiale della terra, in qualche modo si fresa, ecco, mi veniva, si cerca di fresare la parte molto superficiale senza andare in profondità, quindi si rimuove un po' la crosta superficiale, si spezzetta un po' dagli elementi più grossi, si opera la semina, si copre con della torba e poi si rulla in modo che appunto si consolidi tutta la nostra semina, e con una bella rullata si diciamo evita anche che le formiche arrivino e si portino via il seme, che rimane comunque sotto la torba. Dopodiché va bagnato regolarmente. Perché farlo in questa stagione? Perché i semi hanno i semi di prato rustico che io uso, che sono composti da festuca, rondinacea e poa, sono semi a germinazione molto molto rapida, e farlo in questa stagione conviene perché comunque ci sono precipitazioni naturali e questo limita molto l'uso di un'acqua domestica, e perché le temperature sono quelle ideali per l'attecchimento del seme, quindi va fatto adesso. Se invece dobbiamo fare semplicemente un miglioramento di un prato invecchiato, ugualmente si fa, si utilizza o l'arieggiatore o un rastrello con le doppie punte affilate, passando e creando dei piccoli solchi nei quali si poggia il seme, e poi si copre con torba e si pesta con il rullo. Ecco, questo è un po', anche qui detto molto in breve, come si fanno i prati, come si migliorano. Chiaramente su questo argomento è un argomento molto delicato. Per chi vuole sono disponibili per colloqui privati e do consigli molto più diciamo dettagliati. Perfetto, grazie mille. Se ci fermiamo qua, a meno che non ci sia qualcosa di necessario da dire che vuoi aggiungere. Ma la cosa che voglio aggiungere è che anche questa può diventare un leitmotiv delle prossime interventi: piantiamo alberi. Visto che questo è il momento giusto per farlo, piantiamo alberi. Giustissimo. Ovunque è possibile, non incentiviamo l'utilizzo di prati, di tappeti erbosi, perché sono anacronistici ormai, non hanno più motivo di essere realizzati se non in piccolissime superfici, e consigliamo ai nostri clienti di piantare alberi per creare un habitat più favorevole alle piante, ma anche all'uomo e alle nostre città. Quindi questo può essere la nostra bandiera: piantiamo alberi. E poi, detto da me che sono molto avanti negli anni, ha un senso diverso rispetto ai giovani. Io comunque per me questa è diventata una missione di piantare, consigliare quante più alberature possibili anche nei giardini privati. Perfetto, ti ringrazio tantissimo, ti ringraziamo, e a risentirci quindi tra circa un mese per vedere un po' cosa abbiamo fatto, giusto, esatto, e cosa ci sarà da fare a quel punto. Bene, posso lanciare un appello: nella prossima diretta eventualmente potrebbe essere carino anche un microfono aperto. Assolutamente, bellissimo, certo. Cerchiamo di solito di farlo col pad, però chiaramente è uno strumento diverso ed è scritto più che altro. Ci penseremo e a risentirci. Grazie giardiniera Cecilia. Ciao. Ed eccoci qua, quindi abbiamo anche capito che cosa c'è da fare in questo periodo in giardino. Mi raccomando, sfruttate queste belle giornate di sole così che non vi fradiciate completamente e vi prendete appunto l'ultima piccola abbronzatina. Bene, bene, il collegamento in diretta sarebbe molto bello, senza dubbio. I mezzi della radio sono un po' limitati in questo senso, ma il pad, che vabbè, è un supporto scritto, però insomma quello è comunque sempre attivo. Il link è direttawombat.vado.li, quindi ormai lo sapete. Allora io direi a questo punto che vi saluto con un ultimo brano e a risentirci quindi settimana prossima, sempre lunedì, sempre alle 19, ovviamente, sempre con Nervature. Vi auguro a tutte una buonissima serata e ci tengo però anche a fare a ricordare di nuovo l'appello seguite noi, ascoltateci, ma scendete anche in piazza, scendiamo anche in piazza tutte insieme, tutte per mano, tutte a sostenere queste lotte che adesso più che mai sono necessarie contro il genocidio in atto a Gaza. Che dire, ricordiamolo e oltretutto parliamone anche a giro con le persone a noi vicine, anche con persone a noi un po' meno vicine, perché è sempre bene cercare il più possibile di uscire dalle proprie bolle, dalla propria bolla. Vi saluto con un ultimo pezzo, questo è Trombone, Aaron Chupa e Little Sis Nora. Attenzione, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre qui su Radio Wombat. Mamma mia, chunky chunky, used to play that honky tonky, and I bet you won't forget the way she pet that donkey donkey. I'm feeling so alone, so won't you take me home and let me blow that big trombone. Let's go. Trees by the sea are sound asleep, and the man by the piano's feeling lonely. He's begging, won't you sing the simple melody? And we go la la la la la la la la la la, skibbity bop ba da da da da da da da, la la la la. La la la la la la la la.